siamo vivi. Forse è l'ultima, forse è l'ultima. Combattiamo con le nostre mani per difenderci dagli invasori. Forse è l'ultima, forse è l'ultima. Noi crediamo che il divenire non sia soltanto una questione di combattere per non morire, ma costruire un futuro migliore. Mais